Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Sette, 34 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, oggi e domani fino alle 10. Cominciamo adesso dando un'occhiata ai giornali di oggi, quindi una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8. 349-238-6666 per commentare quello che sentite con i vostri sms anche su WhatsApp, naturalmente pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio personale è chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo, vai! E allora, giornali che si occupano degli sviluppi delle vicende romane, sviluppi giudiziari e non, perché per esempio la questione delle polizze intestate, la Salvatore Romeo, braccio destro di Virginia Raggi, alla stessa Virginia Raggi, a sua insaputa, non sono ipotesi di reato al momento, sono altre le ipotesi su cui indaga la procura, ma tant'è, le vicende si intrecciano e il caos, insomma, possiamo dirlo, è notevole sotto il cielo di Roma. Poi il vertice di Malta con la possibilità ventilata dalla cancelliera Angela Merkel di un'Europa a due velocità e ancora dell'altro. Cominciamo, come naturalmente per esempio anche il fatto di cronaca avvenuto ieri a Parigi, cominciamo da qua con la fotonotizia per esempio sul Corriere dei militari francesi che passeggiano davanti al Louvre, davanti alla piramide del Louvre, il macete, le urla, poi gli spari, paura al Louvre, aveva tentato di fare irruzione nella galleria dei negozi sotto la piramide del Louvre, armato di macete e coltello, urlando Allah Akbar. Si tratta di un egiziano di 29 anni che era entrato da pochi giorni, forse da neanche un mese, in Francia. E che poi è stato fermato dai militari francesi prima che potesse fare del male a qualcuno. Il governo francese parla di terrorismo e subito il presidente americano Donald Trump ha twittato dicendo: America fatti furba, vedi che succede con persone che arrivano dall'Egitto, uno dei paesi inseriti nella lista sette paesi dai quali non si può entrare, c'è il blocco, no? Adesso negli Stati Uniti, paesi islamici, paesi da cui arrivano gli integralisti, viene fomentato l'odio e la paura del terrorismo. E questa è stata subito la reazione di Donald Trump, che, come dire, si è buttato su questa notizia. Però dicevamo, la questione di Roma domina, e leggiamo un po' di titoli, tutta la stampa, come sempre, con accenti diversi. Leggiamo il Corriere che scrive: Raggi, resto, Grillo si fida. Due le polizze a suo favore, i PM dicono non c'è reato. Il leader del Movimento 5 Stelle, che secondo alcuni retroscena se la starebbe prendendo con chi attacca la Raggi e in particolare con Roberta Lombardi. Romeo stipulò assicurazioni per 130.000 euro. La sindaca, nessuna relazione, lei non sapeva. Repubblica scrive: Raggi non lascio, ignara delle polizze. Grillo l'assolve, ma ora fai qualcosa. Durante l'interrogatorio, lacrime di tensione. Vabbè, ma insomma, tutte le volte si parla delle lacrime della Raggi, ma non è questo il punto. Chi se ne frega delle lacrime di tensione? Ci stanno, qui c'è da chiarire una serie di questioni. Probabilmente ci sono da chiarire una serie di questioni che che hanno risvolti giudiziari ma anche politici. Assedio alla Raggi, ultimatum di Grillo, ora basta errori, così scrive La Stampa, ma c'è chi ci va giù anche più pesante. Libero scrive: vatti a nascondere, cara Virginia. La Raggi nega Altarini alla base delle polizze in suo favore sottoscritte dall'ex collaboratore in comune Romeo, ma neppure i grillini le credono. L'unica cosa che deve fare è dimettersi. Il Fatto Quotidiano sottolinea: i PM di Roma sulle due polizze di Romeo a Raggi, nessun reato. Quindi qua si tende un po' la mano al Movimento 5 Stelle, alla sindaca Raggi, ripetiamo, non è reato. Però certo la domanda: perché il braccio destro di Virginia Raggi, scelto da lei ancora prima tra l'altro che lei venisse eletta sindaco, ha intestato le polizze a suo favore, così come a favore di altre persone del Movimento 5 Stelle? Perché creare questa ipotesi di beneficio a favore di qualcuno, se non per come merce di scambio di un qualche di una qualche forma di, appunto, di scambio di favori? Ma qui per ora appunto si tratterebbe solo di illazioni, non c'è un'ipotesi di reato. Oppure per come dire, buttare fango a prescindere, no? Un domani per poter in qualche modo dimostrare che la persona è ricattabile, proprio in questo caso da Raggi, proprio per questo ipotesi di scambio di favori. Ma insomma, oppure bisogna stare a quello che ha detto lo stesso Salvatore Romeo, che ieri in un post su Facebook scrive il Corriere della Sera, dice: mi dispiace avere danneggiato sindaca e Movimento 5 Stelle. Poi ha spiegato che non è stato l'amore a far scoccare la freccia della polizza, come dichiarato nella causale relazione sentimentale, ma la stima, perché ha detto Romeo: la Raggi è una delle persone mie amiche che io stimo di più, e quindi d'ora in poi gli amici che stimate potete intestargli una polizza vita a loro insaputa, e così per dimostrargli, però senza farglielo sapere, la vostra stima. Vabbè, si scherza, però la domanda rimane: perché Romeo ha fatto questa cosa qua? Vabbè, ieri sera Virginia Raggi è stata intervistata da Enrico Mentana, la seconda volta che va in televisione a rispondere alle domande di un giornalista. Era stata credo di martedì da Floris. Enrico Mentana alterna domande incalzanti ma anche siparietti divertenti. La sindaca reagisce bene: prima si dice sgomenta per le polizze a sua insaputa, chiederò a Romeo di cambiare beneficiario, ma non ho preso un soldo. E su questo probabilmente non c'è da avere dubbi, non è lei in questo caso la persona che deve dare le risposte, ma Romeo, ripetiamo. Dove mette i suoi soldi? Nel materasso, spiega, forse scherzando. Poi c'è il retroscena che riguarda la reazione di Beppe Grillo, che, a quanto scrivono alcuni giornali, in particolare il Corriere, però queste cose vanno prese con le pinze naturalmente, perché non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma insomma spesso poi questi retroscena trovano anche conferma. Del resto sappiamo che lo scontro a Roma è stato con Roberta Lombardi, che ha fatto parte del direttorio, è una delle prima ora del Movimento 5 Stelle, è una che organizza le feste del Movimento 5 Stelle, senatrice, anzi deputata romana, e che ha attaccato chiaramente, direttamente, la questione di Salvatore Marra, scusate, di Raffaele Marra, ha puntato, che lo ha definito un virus che ha infettato il movimento, e adesso pare che Grillo sospetti che sia lei la fonte che dà le notizie ai giornali e alla procura. Adesso basta, non ne posso più, sta veramente esagerando, se non ci fosse stata lei tutto questo non sarebbe successo, scrive il Corriere. Vorrei sapere come è arrivata questa cosa delle polizze ai giornali e il dossier Patacca contro De Vito. Beppe Grillo è furioso, urla, non si dà pace, ma l'oggetto della sua rabbia non è, come ci si potrebbe aspettare, Virginia Raggi. A scatenare l'ira del fondatore del Movimento 5 Stelle è Roberta Lombardi, scrive Alessandro Trocino in questo retroscena, appunto sul Corriere. Roberta Lombardi, la grande accusatrice della sindaca, che ora viene sospettata di essere lei la gola profonda di giornali e PM. Difficile, prosegue Trocino, trovare un motivo per espellere un esponente così importante come la Lombardi, ma Grillo avrebbe intenzione di convocare lei e altri dissidenti per dare un ultimatum: o danno un taglio a questa raffica di critiche e a questo stillicidio di informazioni diffamatorie che arrivano alle procure e ai giornali, oppure saranno presi provvedimenti definitivi. C'è anche spazio per una brevissima dichiarazione di Roberto Scaiola, Claudio Scaiola, oggi sbaglio tutti i nomi, ricordate Claudio Scaiola? La sua casa vista Colosseo, comprata a sua insaputa, anche lui, è stato lui a coniare questa celebre espressione, no? In genere ai comuni mortali le sorprese che arrivano non sono mai sorprese di questo tipo, no? Sono sorprese di altro tipo, magari negative. Ecco, lui dice, sì, è possibile non sapere anche in questo caso, ma io lasciai. E va bene, forse le due vicende non sono neanche al momento troppo paragonabili, però è così. Certo è possibile che lei non sappia, questo è stato specificato, perché basta avere un codice fiscale da inserire in questa polizza e io posso intestare una polizza a Peter Bescapè, che è qua di fronte a me in regia, e lui non lo saprebbe mai. Quindi a dare risposta, ripetiamo, non è sicuramente dover dare risposta a Virginia Raggi, ma Salvatore Romeo. Va bene, questo per quanto riguarda la vicenda Roma, con annessi e connessi. Altro titolo: Il Messaggero, Raggi vacilla, Grillo la blinda, il caso polizze scuote il Campidoglio, il sindaco, ho pensato di dimettermi ma non lascio, Beppe è con me, Romeo, lei non sapeva nulla ma non spiega il motivo del regalo. Poi il Manifesto fa una sintesi con un titolo dei suoi, con la foto di Virginia Raggi semisorridente, e il titolo è Premio Polizer. Non mi dimetto, anche qua la fiducia di Grillo, finita nel tritacarne per la polizza intestata a suo favore da Salvatore Romeo, Virginia Raggi si difende e contrattacca, querello chi ipotizza vantaggi e l'ex capo della segreteria la copre, è stato un regalo per stima personale. Però non glielo ha detto. Va bene. Adesso avevamo anticipato la questione del vertice europeo di Malta con questa copertura per quanto riguarda l'accordo tra Italia e la Libia sul flusso di migranti da controllare dalla Libia all'Italia. Per la verità un accordo con un paese diviso in mille fazioni, tanto che sul Repubblica l'analisi di Lucio Caracciolo, Libia, il patto con il paese che non esiste. Adesso leggeremo anche questo commento dopo il traffico, ma dal vertice appunto di Malta arriva la notizia che un'altra, Angela Merkel avrebbe ventilato, e se ne parlerà probabilmente nei prossimi mesi, l'ipotesi di una Europa a più velocità, una Europa a cooperazione rafforzata, integrata, chiamatela come volete, sono ipotesi previste dai trattati, insomma un'Europa a due velocità nella quale un gruppo di paesi prosegue nella strada dell'integrazione e un gruppo molla sugli argomenti, sui temi che non sono di suo interesse. Tutto ciò per prevenire che cosa? Altre Brexit. Nell'anno, tra l'altro, delle elezioni in Francia e poi ci saranno anche in Germania. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. E allora, scrive Repubblica, Merkel, il futuro dell'Europa a due velocità, la svolta di Malta, ma così anche sul Corriere in prima pagina, secondo titolo, Merkel evoca un'Europa a più velocità, il nodo che potrebbe essere affrontato al vertice di Roma in marzo. Angela Merkel, scrive il Corriere, vorrebbe che la realtà dell'Europa a due velocità fosse messa nella dichiarazione di Roma, cioè nel documento che dovrebbe uscire il 25 marzo dal vertice che l'Unione Europea terrà in Italia per celebrare i 60 anni del trattato fondante della Comunità Europea, diventata poi Unione Europea. Una presa d'atto di ciò che già è, ma che potrebbe dare una dimensione del tutto nuova al percorso che il continente compirà nei prossimi anni. La questione sarebbe stata discussa e presa in considerazione anche da altri capi di governo ieri durante il summit europeo di Malta. Abbiamo imparato dalla storia degli ultimi anni, ha detto la Merkel, che ci potrebbe essere un'Europa a differenti velocità, che non tutti parteciperanno ai vari passi dell'integrazione europea. nella dichiarazione di Roma si dovrebbero tracciare le linee sulle quali si muoveranno l'Unione Europea, l'Eurozona, per rispondere alle crisi molteplici dei debiti pubblici, della Brexit, delle migrazioni, della crisi con la Russia sull'Ucraina, delle sfide alzate anche dalla nuova amministrazione Trump in America, a proprio all'Europa. E quindi l'ipotesi che si sta ventilando è questa di una Europa a più velocità. E vedremo, insomma, potrebbe essere questa la classica terza via tra l'Europa così com'è e la disintegrazione dell'Europa, qualora dopo la Brexit dovesse arrivare un'uscita anche della Francia, perché se le elezioni Marine Le Pen di quest'anno, le elezioni francesi, Marine Le Pen che è in vantaggio nei sondaggi, dovesse vincere, essere conseguente con quanto promesso, beh, insomma, la dissoluzione dell'Europa è alle porte, quindi questa ipotesi qua non è un'ipotesi solo di fantasia. Dicevamo però che il vertice di Malta di ieri ha dato un'altra un risultato, è quello dell'avallo europeo a parola, almeno il presidente del Consiglio europeo Tusk, all'accordo tra Italia e la Libia sul controllo dei migranti dalla Libia proprio verso l'Italia. Ma il problema è un altro, è che scrive Lucio Caracciolo su Repubblica: il patto con il paese che non esiste. Che senso ha firmare un accordo internazionale con un paese che non esiste? Tre le risposte possibili: per inconsapevolezza della realtà, oppure per disperazione, oppure perché serve ad altri scopi. E prosegue l'analisi di Caracciolo: nell'intesa tra Italia e Libia per bloccare i flussi migratori illegali, la prima ipotesi, cioè quella della inconsapevolezza, è esclusa, perché insomma il nostro governo è perfettamente informato della situazione sul terreno. Qual è la situazione sul terreno? La Libia è terra di nessuno, contesa tra centinaia di milizie e gruppi criminali di varia origine, con almeno tre pseudo-governi: quello internazionalmente riconosciuto di al-Sarraj, con cui abbiamo firmato l'accordo, il gabinetto rivale insediato in un albergo di Tripoli presieduto da Khalifa Gweli, e poi l'entità cirenaica radicata a Tobruk. L'altra ipotesi è la disperazione. Questo sì, dice Caracciolo, è un buon motivo per il governo italiano, che sarebbe quindi disperato. Niente come la paura del migrante, tanto più se arabo e musulmano, agita le opinioni pubbliche occidentali. Trump ci ha costruito la fulminante ascesa alla guida della superpotenza americana. I partiti xenofobi in Europa vi puntano per allargare il consenso, eccetera, eccetera, eccetera. Meglio quindi un accordo simbolico, un accordo con se stessi quasi, dice Caracciolo, che nulla. E questo è un po' la fotografia, almeno in questa analisi, di questo accordo tra l'Italia e la Libia sul controllo del flusso dei migranti. Naturalmente facciamo il tifo che a qualche cosa possa servire, ma i dubbi ci stanno tutti. Adesso però intanto fatemi dare il titolo economico del Sole 24 Ore, che ha una buona notizia: riparte il lavoro in America, Wall Street ai massimi. In gennaio creati 227.000 nuovi occupati, il Dow Jones risale sopra quota 20.000, e poi c'è anche la notizia che Trump smonta la riforma finanziaria di Obama, quella creata nel 2010 dopo la crisi del 2008, che avrebbe dovuto mettere in qualche modo un freno, le redini, un controllo agli operatori finanziari di Wall Street. Ma adesso Trump la vuole smontare. Dalla prima pagina invece torno sul Corriere della Sera, la questione di Vasto. Sei un eroe, il tifo in rete dopo il delitto. Vasto, nascono gruppi su Facebook, l'assassino però dice: non volevo ucciderlo, mi ha sfidato. Qui c'è una brutta storia, perché quello che è accaduto lo sapete tutti: l'omicidio di questo panettiere di Lello, che è andato ha incontrato per caso, lui dice, Italo De Lisa, che aveva ammazzato la sua moglie, la sua compagna, per un incidente stradale nel quale aveva stracciato un rosso. Vabbè, questa è storia, ma succede che all'indomani di questa vendetta, o di questo essersi fatto giustizia, come scrivono in molti sulla rete, in particolare su Facebook, si aprono pagine commemorative: sei un eroe, sei un vero gladiatore. La prima pagina, Italo De Lisa, la giusta fine. Italo, un assassino, per meglio dire un verme che ha stroncato la vita di una donna e l'esistenza di suo marito, ha fatto la giusta fine, quella che si meritava sin dal giorno dell'omicidio. Onore al gladiatore Fabio Di Lello. E così andare via di questo tono. Altre pagine sono state chiuse, sempre in giornata, perché inneggiavano a questo a questo che però è un vero e proprio omicidio. Dov'è che sta l'errore, il problema grave di questa gente che scrive queste cose, che è inconsapevole di quello che dice probabilmente, perché sentite cosa dice la mamma di Dilello. La mamma di Dilello: pensavo si ammazzasse lui. Michelina Foglio, la madre di Fabio Dilello: la signora non sa se parlare, se tacere, scrive sempre il Corriere. Prima si allontana, poi si ferma, viene via, la trascina il marito, parla lui. Qui ci sono tre tragedie adesso, perché oltre alla moglie uccisa, adesso è morto anche il ragazzo, ma anche la vita di Dilello è una vita distrutta, perché ha compiuto un omicidio in carcere, e chissà quanto ci resterà. E ancora, basta, poi arriva il fratello. Ero preoccupato per lui, Fabio non stava bene, temevo che facesse qualcosa. Ma cosa? Qualcosa in generale, il suicidio? Sì, anche, era in cura, prendeva da tempo psicofarmaci per trovare un nuovo equilibrio, ma non ce la faceva, aggiunge. Sì, ribadisce la madre, io non pensavo che uccidesse qualcuno, ma che potesse, puntini puntini, cioè ammazzare se stesso. Chiude il padre insistendo e dice: tre famiglie rovinate, prima quella di Roberta, poi la nostra, ora quella del ragazzo. Non doveva succedere. Ecco perché inneggiare a questa vendetta è insensato, è insensato, senza entrare poi nelle motivazioni, senza giudicare nessuno, ma giudicare chi commenta con leggerezza questi fatti senza sapere, capire niente, questo si può fare. E va bene, vi lascio con un titolo velocissimo che riguarda la Finlandia, dove si sta sperimentando il reddito di cittadinanza. Lo scrive La Stampa: il laboratorio Finlandia, 560 euro a 400 persone estratte a sorte per 2 anni. La differenza rispetto al passato è che questi soldi, questo reddito di cittadinanza, te lo danno anche se trovi un altro lavoro, cioè è un incentivo a non arrendersi. Sei disoccupato, ti do un sussidio, ma se trovi un altro lavoro non arrenderti, non ti tolgo neanche il sussidio. E questo sta sperimentando la Finlandia. Noi ci fermiamo qua, c'è il giornale radio, poi ci troviamo subito dopo. Non si può fare. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. E allora, ben ritrovati insieme per una nuova diretta fino alle 10. 800 24 00 24, vi aspettiamo per stare con noi, per raccontarci quello che volete. Carlo, Milano Monterosa? Ha smesso di piovere al momento, non sgocciola nemmeno, però insomma il cielo non bellissimo. Al momento il cielo di Milano non bellissimo. Ce la possiamo fare però, ce la possiamo fare. Allora, cari ascoltatori, beh insomma... può capitare, no? Può capitare di essere sorpresi perché qualche amico ti fa una sorpresa. Cosa stai cercando di dirmi, Alessio? Avrei mica fatto una polizza a mio favore? Insaputa. Ah, ecco, io sono felice. Che tra l'altro è giusto, da un certo punto di vista, è giusto farle a insaputa del beneficiario. Sì. Perché se tu facessi una polizza dove se muori a me arrivano dei soldi, poi dopo dovresti guardarti le spalle. Perché uno dice: che cosa mi hai messo nel caffè? Sarà mica che c'è dentro della stricnina, di modo che poi la polizza finalmente io... ti venga versata. Forse quindi è per quello che si fanno a insaputa. Forse è per quello che Romeo non l'ha detto alla Raggi, lui ha detto è per la grande stima che hanno nei suoi confronti, però questa stima non gliel'ha mai manifestata. È per tutelarsi, forse è lui. Comunque noi vi chiediamo, cari ascoltatori, al di là di tutto, può capitare nella vita di essere sorpresi positivamente, altre volte magari meno, Però raccontateci le cose che vi hanno veramente sconvolto, le sorprese, le cose che non vi aspettavate, che vi hanno veramente sconvolto. Ciò che è stato fatto a vostra insaputa, perché poi in fondo tutte le sorprese sono a tua insaputa, no? Se ti organizzano una festa sorpresa è a tua insaputa, se no non è una sorpresa, ovviamente. Oppure quando avete ricevuto l'eredità di zia, bella zia, grazie zia, questa è una sorpresa positiva. Oppure la volta che tragicamente avete scoperto che vostra moglie o vostro marito se la faceva col vicino di casa, è una sorpresa anche questa. Anche però quello a insaputa, perché sennò è impossibile. Soprattutto. E quindi 800 24 00 24, chiamateci. Oggi in palio un libro, stiamo riorganizzando la questione delle mostre. Oggi un libro, vi diremo strada facendo quale libro vi regaliamo. Anche a seconda forse delle vostre risposte sceglieremo un libro, adesso ci pensiamo. Magari anche due, se ci sono più risposte che ci convincono. 800 24 00 24, le sorprese che vi hanno veramente sconvolto. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. L'ossessione per lo smartphone, per il cellulare, dai, ce l'abbiamo tutti l'ossessione, perché siamo tutti lì in mano a smanettare dalla mattina alla sera. Però a scuola si può, non si può, si deve, non si deve? Bella domanda. Ai nostri tempi questi problemi non c'erano, Carlo, almeno questo possiamo dirlo. No, di sicuro, non è che avevi il fisso tu appoggiato sul tuo banco avevamo di scuola? Avevamo tanti problemi, le aule fredde, mancava la palestra, ma certo non avevamo questo problema. Allora, chissà in quante scuole in questo momento, sono le 8:20, si sta iniziando l'attività scolastica, chissà quanti sono quelli appunto che sotto banco smanettano mentre il professore parla con il cellulare. Aspetta, sotto banco smanettano. Magari sotto banco hanno l'app e stanno sentendo Radio 24. Quindi anche bravi, tu, attenzione. Tutto questo però non può accadere dove? All'istituto comprensivo 91 di Minniti di Napoli. Ecco noi la preside, Rosanna Stornaiuolo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Da voi non può accadere per il semplice motivo per il quale lei ha stabilito che a scuola i cellulari possono entrare ma non entrano in classe, nel senso che li chiudete in degli armadietti al primo minuto e li ridate alla fine. Tanto per cominciare è stata una decisione del consiglio di istituto, quindi non una decisione semplicemente del capo di istituto, ma del consiglio di istituto, dove chiaramente tutte le componenti della comunità scolastica hanno sono deciso questa. Adesso le faccio spiegare bene di cosa si tratta, come siete arrivati a questa decisione, perché noi la mettiamo così anche agli ascoltatori all'800 24 0024 se vogliono iniziare a chiamare per dire la loro. È un si può fare un po' interrogativo, no? Perché ce lo domandiamo anche noi e lo domandiamo agli ascoltatori: è giusto che la scuola lasci fuori questi oggetti del desiderio potenzialmente utili a 100 milioni di cose, lo sappiamo tutti, però che sono oggettivamente anche una fonte di distrazione, e siccome esatto, a scuola bisogna concentrarsi, anche sul lavoro sono una distrazione, quindi a volte si vorrebbe che qualcun altro ci vietasse. Bravo. Perché pare che ogni volta che uno legge un SMS si distrae per almeno 15 minuti, non riesce a tornare a fare il lavoro che stava facendo. E c'è un calo del PIL. Voi come siete arrivati a questa decisione, preside? Infatti, come le dicevo, è partita anche un po' dal basso, perché abbiamo cominciato in via sperimentale 2 anni fa, dove una classe, proprio il consiglio di classe, la componente genitori, la terza E, proprio i genitori insomma insistevano sul fatto, come diceva lei, che il cellulare è sicuramente uno strumento di distrazione. E quindi si è proposto, ripeto, 2 anni fa, per quella classe di evitarne l'uso in classe. L'anno successivo le altre classi dello stesso corso, parlo quindi dell'anno scorso, hanno fatto altrettanto. E quindi poi quest'anno siamo andati, diciamo, a regime, tra virgolette, per tutte le classi della scuola media. Ecco, e quindi come funziona? Come funziona? Concretamente riuscite a fare questa cosa? Noi crediamo che oltre al fatto in sé che giustamente la scuola è un luogo di ascolto, non è un luogo di distrazione, quindi diciamo la valenza educativa in questo sì, aspetto, ma anche di sviluppare proprio l'autonomia e la responsabilità dei ragazzi, che poi sono le basi della scuola media, della secondaria di primo grado, in cui i ragazzi si formano. In realtà funziona così: al mattino tutti i ragazzi consegnano appunto autonomamente, lo ripongono in una scatola, sì, il proprio cellulare custodito in un sacchettino di plastica. Stiamo insomma parlando di scuole medie in questo caso. Di scuole medie. Pensa che dolore, il ragazzino di 13 anni che si separa dal suo amato cellulare. No? Ma una scatola comune, diciamo, è la stessa la per tutti? È stata, Preside, scusi, forse perché è graduale, sì, non so. E quindi poi ma mi scusi un attimo, la scatola, sì, per capire, è una scatola, è la stessa scatola, si mettono tutti i cellulari, ognuno ha la sua con la sua chiavetta? No, la stessa in cui tutti i cellulari della stessa classe vengono riposti, okay, però ciascun cellulare appunto in una bustina protettiva per evitare che si possa confondere rompere, o rovinare graffiare. E questo accade al minuto zero, no? Quando si entra la mattina, alla prima ora, alla prima La cosa che vorrei segnalare, che secondo me è molto interessante, è che i ragazzi naturalmente poi con l'accordo dei professori hanno individuato un compagno, in alcuni casi è lo stesso durante tutto l'anno, in altri casi fanno un po' a rotazione, sì, che è responsabile. Che risponde alla telefonata di tutti, sarebbe no, bellissimo. No. Cioè, finalmente un segretario. Ecco, segretario. No, mi scusi, no, non volevo interromperla. No. Praticamente mette la scatola nell'armadietto ed è l'unico, a parte poi l'amministrazione ovviamente, ad avere la chiave dell'armadietto. Ecco, quando vengono restituiti questi cellulari? All'ultima ora, durante l'intervallo? Sì, all'ultima ora, 5 minuti prima insomma del suono della campanella. Immagino minuti, tutto un proliferare di suonerie, di squilli, perché in quei 5 minuti perché... vengono riposti spenti i cellulari, perfetto, nell'armadietto, altrimenti sarebbe un concertino tutta la mattinata. ma quanti ragazzi in realtà, mi scusi la domanda, hanno due cellulari, gliene consegnano uno e si tengono l'altro sotto banco? È capitato. Anzi, consegnano quello capitato, vecchio, un vecchio Startup. È capitato, ma devo dire che sono stati casi molto sporadici, perché certamente, ecco, vorrei sottolineare questo, ci guardiamo dal perquisire o cose del genere, però nel momento in cui viene fuori chiaramente c'è il rimprovero, e se dovesse essere usato poi c'è, diciamo, la sanzione più grave a seconda dei casi, certo, e quindi i ragazzi alla fine hanno abbastanza, come dire, l'hanno digerita questa, sì, cosa. Quindi proteste non ce ne sono state più di tanto? No, ripeto, forse perché c'è stata questa introduzione graduale, ripeto, proprio la componente genitori di un, sì, consiglio di classe l'aveva proposta. L'anno successivo è stata estesa questa misura a tutto il corso, e quest'anno a tutte e 12. E devo casi dire che è bello che per una volta una iniziativa, possiamo chiamarla ora esagio, magari di civiltà, ma insomma di educazione civica, venga dal sud, da Napoli, che tante volte invece viene indicato, esatto, per l'opposto. Intanto due domande arrivano dal 3492386666, i nostri SMS. I docenti, sì, pure sono tenuti a consegnare il cellulare, oppure il prof risponde agli SMS mentre... Allora, il docente non lo consegna, ma il docente sa che durante l'orario non deve usarlo, deve averlo spento, e magari lo accende nell'ora di pausa in sala professori se ha bisogno di fare comunicazione, ma non durante lo svolgimento della lezione. Certo, ma ecco, però la domanda è anche questa: come mai anche durante l'intervallo? Perché io sono piuttosto d'accordo che durante le lezioni i ragazzi non debbano avere il telefono in mano e occuparsi d'altro, però durante l'intervallo mi sembra che potrebbe anche esserci. Ma guardi, alla fine l'intervallo, 10 minuti, un quarto d'ora, mentre vanno i servizi, mangiano la merenda, forse si creerebbe anche più caos nel restituirli, ridarli. Forse è anche bello scambiare una chiacchiera con il compagno per una volta, certo, anziché stare sempre con i dispositivi. No, su questo sono d'accordo, però questo credo che sia è la scelta degli studenti, nel senso che durante la lezione è un conto, durante l'intervallo se uno ha la necessità di mandare un messaggino ci poteva stare. Ma diciamo perché... che non c'è stata questa richiesta, non abbiamo rilevato, diciamo, questa insistenza, neanche non è venuta fuori questa esigenza da parte dei ragazzi. Certo. Perché una delle cose che si dice, no? Il cellulare, oggi gli smartphone servono a fare tante ricerche, possono aiutare anche nella didattica. Esatto. Uno dice, ma a che serve imparare le tabelline a memoria se posso farlo sullo smartphone? A che serve sapere la calcolatrice c'era anche prima dello smartphone, c'era anche prima, esatto, però magari non c'era. Esatto. A che serve sapere la capitale della Finlandia se la posso trovare su Wikipedia? Me lo dice lei a che serve imparare le cose a memoria? Se parliamo appunto delle tabelline, tanto per fare un esempio, io penso che sia importante proprio, a parte l'uso dei dispositivi, no? Ma spesso si insegna, beh, 6 volte il 7, ma io penso proprio per la velocizzazione del calcolo, che poi comunque si acquisisce, però io penso che venga che debba essere acquisito sin da giovanissimi, come accadeva, diciamo, con noi quando eravamo piccini, no? Perché naturalmente la logica ci sta, beh, vuol dire 6 volte 7, però la velocizzazione delle operazioni presuppone anche la memorizzazione delle tabelline. Io ritengo che non bisogna dire che tutto ciò che è non bisogna rinunciare, esatto, non bisogna dire tutto ciò che tradizione va buttato via, la memoria va sviluppata, va allenata, perché serve nella vita. Poi uno usa lo smartphone per fare 100.000 cose, però non è puoi rinunciare, diciamo, l'uso, però non significa che bisogna escludere l'altra, insomma. Ma io sono molto favorevole con questa regola, però le volevo chiedere un'altra cosa, ovvero non bisognerebbe in realtà educare all'uso dello smartphone, perché non possiamo far finta che gli smartphone non esistano e che non siano molto presenti nella nostra vita, e non si può farne a meno, perché ormai anche per ordinare la pizza serve lo smartphone, per controllare, insomma, per qualunque cosa. Quindi in realtà mi chiedevo, cioè non vorrei che il divieto fosse semplicemente un fatto di dire vabbè, a scuola ce lo vietano, così appena smetto appena finisce la lezione io mi attacco al telefonino e sto attaccato al telefonino dalla fine delle lezioni fino al rinizio delle lezioni il giorno successivo. Invece, siccome secondo me ci si accorge con il tempo che sono veramente è un problema, come dicevo prima, a volte se uno sta anche semplicemente scrivendo, per un giornalista che sta scrivendo un articolo, continuamente risponderà ai messaggini su WhatsApp, appunto. Si dice che ogni volta per un quarto d'ora non riesce a riprendere il filo dell'articolo, quindi in teoria non dovremmo più essere nessuno in grado di scrivere niente. Invece ho la sensazione che bisogna essere educati all'uso, cioè che uno anche, forse è una buona pratica che anche a casa dica ok, adesso devo fare questa cosa, devo scrivere questa cosa, ai messaggi rispondo fra 90 minuti, non è un problema. Certamente, naturalmente si tratta di un'educazione, come in tutti i casi, in cui la scuola ha un ruolo fondamentale, però anche le famiglie, noi nei nostri rapporti con le famiglie tendiamo a dire proprio quello, soprattutto nei casi appunto di ragazzi che non si applicano tanto, ma quanto tempo trascorre alla PlayStation? Quindi sicuramente sono due cose secondo me diverse. Poi posso dire una cosa io rispondendo, certo, a quello che diceva Carlo, una risposta potrebbe essere: già allenarsi a non utilizzare il cellulare potrebbe essere la lezione numero uno di come, esatto, si usa il cellulare. Sì, è molto vero, ma mi chiedevo se facevate anche la lezione numero due e la numero tre, ovvero se prevedevate dei corsi di uso responsabile dello smartphone. Ora, tutto un corso annuale forse è troppo, ma di avere un'attenzione a questo, a spiegare ai ragazzi che usarlo non è un male, ma che bisogna imparare a usarlo bene. Anche perché poi ci sono derive, lo sappiamo benissimo, la pubblicazione di video sbagliati, le cose in cui ci si pente, eccetera, eccetera. Diciamo che non c'è un corso, a onor del vero, un progetto, ma naturalmente lo stesso fatto che questo provvedimento sia stato, a mio avviso, così ben interiorizzato dai ragazzi, vuol dire che c'è stato anche, come dire, un dialogo costruttivo con i docenti a monte, che in cui sono state spiegate delle cose. È un inizio, è un primo passo. Esatto, è un primo passo. Si discute, forse non posso affermare che esista un progetto, che pure sarebbe opportuno farlo, ma dico nelle realtà scolastiche in genere. Vabbè, ci possiamo lavorare, Presidente. È stato affrontato. Esatto, certo, visto sì. Che voi comunque siete in questo momento, non dico all'avanguardia, ma siete una delle scuole che per prime ha affrontato con questo tipo di risposta la questione del cellulare a scuola. Tra l'altro ci stanno scrivendo al 349-238-6666 che anche all'istituto, adesso a Como. Più a Como lo fanno, eccetera, eccetera. Insomma, non siete gli unici, siete forse tra i primi. Quindi da Napoli, dall'Istituto Comprensivo Minniti di Napoli, arriva questo messaggio, questa proposta è un bel si può fare. Grazie preside, grazie, Stornaiuolo, grazie per essere grazie, con noi. Grazie. Arrivederci. Grazie. E allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi ha convinto questo si può fare, lasciare il cellulare in un armadietto chiuso all'ingresso a scuola e riprenderlo solo all'uscita, oppure no, oppure magari, come diceva Carlo, la scuola potrebbe anche insegnare ad utilizzare lo smartphone, magari però in quell'ora in cui si fa lezione di smartphone, però nelle altre quattro lo esatto. Smartphone fuori. E soprattutto in quell'ora, come sono invitati anche i genitori, io andrei subito a un corso responsabile per smartphone. Sarebbe interessante. Cari ascoltatori, ci risentiamo tra pochissimo, vi aspettiamo anche per dirci che cosa, qual è la sorpresa che vi ha veramente sconvolto, così come è apparsa sinceramente sconvolta Virginia Raggi nel momento in cui ha scoperto che Salvatore Romeo, il suo fidato braccio destro, le aveva intestato una polizza. Cose che capitano nella vita reale, oppure capitano altre. Troppo poco. Altre sorprese. Quali le vostre? 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, eccoci qua, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Abbiamo Francesco che ci chiama da Bari. Buongiorno. Buongiorno. Intanto buongiorno. Complimenti tantissime per la vostra grazie. Brillante trasmissione. Grazie. Io mi precipito ad alzarmi dal letto la mattina per andare in bagno e stendermi tutta la vostra trasmissione. Primo, complimenti. Ci emozioniamo così, eh? Complimenti veramente. Poi, in secondo luogo, il fatto delle polizze all'insaputa, diciamo, dell'interessato, sì, no? Sì. Io ho lavorato tanti anni a Firenze in una farmacia molto nota e grande, no? Sì. E presso, diciamo, il proprietario che veniva dalla Smara, un po' abbastanza ricco, no? E lui e la moglie senza figli, evidentemente io sapevo fare il mio mestiere, si affezionarono talmente a me, fino al punto da scoprire, quando io poi mi fidanzai, che decisi di tornarmene in Puglia, nella mia terra, di venire via, no? Sì. Anche rimasero molto male, è logico, rimasero molto male, anche se ora i rapporti sono ottimali. Avevano trovato mi un pupillo. Mi presento tre polizze. Tre polizze. Franco, mi chiamo Franco, così. Sì. Franco, guarda cosa avevo fatto per te. E questa farmacia un domani sarebbe stata tua. Quindi non gliel'aveva detto, era sua no, insaputa. No, non mi avevano detto assolutamente niente. Ma allora lo vedi che succede, polizie a quindi vostra la Virginia Raggi, poverina, che la stanno massacrando da tutte le parti, ma lasciamola fare, poverina. Ha forse anche ragione di questo fatto, no? Ma lei se ne andò quindi da questa farmacia e o no? A che punto là, secondo lei, per dignità personale, che dovevo dire resto perché mi hai fatto le polizze, quindi dovetti piegare la testa. Complimenti. Dovetti piegare la testa, venirvi a sposarmi e da 18 giorni sono diventato nonno di un bellissimo bambino. Complimenti. Le facciamo i complimenti. I rapporti poi, diciamo, col mio direttore, con la moglie, figurati. Ma quanto ammontavano queste polizze? Una era di 700 euro, l'altra era di 1200 euro e l'altra di 440 euro. Io pensavo che fosse una storia molto lontana nel tempo, invece siamo nell'euro, quindi stiamo parlando al massimo di una quindi decina. Come vede, insomma, naturalmente io sarei rimasto lì. Ma le ha incassate queste polizze? No. Poi neanche a quel punto lei. Là, no. Neanche lei. Beh, avranno cambiato giustamente. Mi sentii molto male, allo stesso tempo non immaginavo nemmeno a che punto, diciamo, il loro affetto nei miei confronti. Vedi. Ripeto, ora siamo in ottimi rapporti, ci sentiamo quando vedi, vado a Firenze volte, li vado a trovare. Va benissimo, Franco, Francesco, anzi Franco, vedi che Franco, a volte si dice, Andreotti diceva pensar male, si fa peccato ma non si sbaglia, invece in questo caso si sbagliava, perché queste persone si erano preoccupate per lei, avevano fatto la polizza, non so in quanti possono raccontare una storia come la sua, però complimenti, grazie. Allora, lo iscriviamo sicuramente al concorso. Certo. E poi vediamo, tra un po' premiamo un paio di ascoltatori, mettiamo in palio dei libri. E se ci ascolti fino alla fine, poi le diremo. Oliva da Varese. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io pensavo Olivia, invece è Oliva. No, no, Oliva come le olive. Perfetto. Vai. Io sono la responsabile di un centro di formazione professionale, sì, a Busto Arsizio. E noi ormai da qualche anno abbiamo adottato il criterio di esplicitare il divieto di utilizzo dei cellulari durante le ore di lezione. Okay. Quest'anno i consigli di classe hanno deliberato il ritiro preventivo all'inizio delle lezioni in concomitanza del gioco che c'era di trovare, adesso non mi ricordo che cosa, per strada c'erano dei pupazzetti, c'era comunque i Pokémon. I Pokémon Go, ecco, certo, certo. Ecco, quindi in un'ottica preventiva, posto che comunque questa... Ma quella ha creato una strage sui luoghi di lavoro, nessuno faceva più un tubo, tutti a caccia di Pokémon. Onde evitare, conoscendo i nostri allievi, abbiamo deliberato come consigli di classe di ritirare all'inizio delle lezioni i cellulari. Noi siamo magnanimi, quindi durante l'intervallo i ragazzi possono riutilizzare. Esatto, e poi nuovamente... Che età hanno i ragazzi che vengono da voi? Vanno dai 14 ai 19-20 anni. Quindi è anche più difficile forse che non in una scuola media. Quindi complimenti, complimenti. Lo ripetiamo, è una domanda che ci facciamo anche noi. Non abbiamo risposte da questo punto di vista. Però siamo consapevoli del fatto che lo smartphone è fonte di distrazioni. In una scuola si va per concentrarsi su qualcosa. Quindi è una soluzione... andrà trovata, ma mi sembra che questa strada sia percorsa già in parecchie situazioni, in parecchie scuole. Quindi chiamateci 800 24 00 24. Marco dalla provincia di Foggia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora, complimenti per la trasmissione. Grazie. In gamba, ragazzi. Grazie. Allora, io ne ho un paio di storie in realtà. Una è legata a un tradimento che ho scoperto ed è molto, diciamo, veloce da raccontare. Praticamente una mia ex fidanzatina, all'epoca ero ventenne, si vedeva con il fidanzato dell'epoca di mia sorella piccolina, insomma, quindi scoprì questa cosa e fu un bello shock. Cioè, è un doppio tradimento interno carpiato. È una corna proprio di quelle di dimensioni, al quadrato, diciamo. Sì, al quadrato. Ma l'ha detto sua sorella? Allora, mia sorella, l'ho saputo grazie a mia sorella grande. Mia sorella grande era riuscita a prenderle il telefono perché vedevano che lei aveva negli ultimi periodi un comportamento strano. Mia sorella grande, introspettita di questa cosa, le prese il telefono e vide che c'erano, insomma, questi messaggini che lei inviava a questo numero, che tra l'altro non aveva salvato, neanche a farlo apposta. Era un mesetto circa che mia sorella, la piccolina, diceva che c'era una ragazza perché questo ragazzo poi alla fine glielo aveva anche detto che c'era una ragazza che gli mandava questi messaggini, quindi si sapeva che c'era una ragazza ma non si sapeva chi fosse. Esatto. Ecco, quando insomma alla fine è venuta fuori questa cosa, era il giorno della festa della Madonna, stavamo tutti quanti a casa pronti in procinto. Ma che avete fatto, Marco, quando avete scoperto lei e sua sorella di essere stati traditi entrambi? Siete usciti a cena a ubriacarvi? Che avete fatto? No, in realtà io con lei mi sono arrabbiato molto perché non con ero la d'accordo sorella. Con mia sorella. Ma che c'entrava lei, poverina? Perché non ero d'accordo che lei si vedesse con questo ragazzo, perché era, diciamo, un poco di buono. Ah. E questa circostanza lo ha ulteriormente dimostrato. Quindi questa storia è un casino, scusa Marco se lo dico, ma è veramente un casino. Però sei troppo parte in causa per poter dire che è un poco di buono. Cioè, è colui che stava contemporaneamente con tua sorella e con la tua fidanzata. Quindi, insomma, comunque, Marco, mi sa che ti iscrivi ai primissimi posti. A pieno diritto. Quindi il giardino dei Finzi Contini forse è tuo. Va bene, avevi un'altra storia, però noi non abbiamo tempo perché dobbiamo dare la linea al traffico. Se vuoi, ci risentiamo dopo. 800 24 00 24. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta si può fare. Cronache da un paese migliore. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3. Coi soldi che le do non ce la fa più, ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto in faccia mi arrivò. Andai a piedi alla guardia medica, c'era lo sciopero anche dei tramvai. Arrivò lì ma il dottore non c'è, e il sciopero anche lui, che gioco è? Ma come finirà? C'è il caos nella città, bravo va, bravo va, non so più cosa far, bravo va, bravo va. E allora diamo il buongiorno a Cesare Polenghi, giornalista, vive a Tokyo. Ciao, lo sentiamo spesso a tutti i convocati. Ciao a tutti da Tokyo. Buongiorno. Allora, abbiamo introdotto con Adriano Celentano, però mi fai sentire là il celebre audio. Lavoratori! E questo era il celeberrimo Alberto Sordi, lavoratori tie. Anche il Giappone sembrerebbe avere detto lavoratori tie, perché sentite qua il titolo: giapponesi lavorate troppo, il governo deve correre ai ripari. Stress e suicidi per i carichi eccessivi, allo studio un tetto agli straordinari. Cesare, però qui alla base c'è un problema vero, c'è quello che diceva il titolo, no? Stress, gente che crolla sul luogo di lavoro come così proprio pam. Purtroppo è un problema serio, ma non penso che sia un problema di facile soluzione, perché è proprio una cosa che fa parte della cultura giapponese. Certo. E quindi sai, anche quando varie volte quando succede qualcuno di questi episodi che poi non riportati dai media, c'erano discussioni, c'erano tavole rotonde, trasmissioni in televisione, ma poi è molto difficile cambiare questa cosa. Da noi succede soltanto se entra la guardia di finanza in ufficio che la gente sviene sul posto di lavoro, non certo per eccesso. No, noi abbiamo spesso il problema contrario, dei furbetti del cartellino. Però la notizia è allarmante, perché si parla di 200 morti e suicidi all'anno per superlavoro. Quindi e addirittura mi immagino chissà quanti morti non si sa che siano esattamente per superlavoro. E quanti feriti? Quindi, certo. Da quello che abbiamo capito, in realtà adesso si sta cercando di mettere un tetto alle ore di straordinario, e comunque il tetto è 100 ore di straordinario al mese. È così? Beh, insomma, in Giappone lavorare 70-80 ore alla settimana è la norma. 70-80 ore? Sì, questa è la norma. Che è quasi il doppio di quello che prevedono gli orari. Però l'orario non sarà questo, cioè è la norma, come dire, una consuetudine, tutti lavorano molto. Sì, esatto, è una consuetudine, bravissimo. È anche una questione di orgoglio, ma più che altro penso, certo, che la questione più importante sia che in Giappone è molto difficile cambiare, spostarsi da una compagnia all'altra. Cioè, da un'azienda all'altra. Quando un giapponese entra in una compagnia, di solito è un matrimonio che dura tutta la vita. Eh sì, eh? Se uno vuole cambiare lavoro, quando fa un'intervista di lavoro per il, sì, prossimo lavoro, la prima cosa che fanno è chiamare la compagnia precedente. E si informano? Si informano, sì. E siccome qui non c'è molta competizione fra compagnie, anzi più che altro collaborano molto fra di loro, capisci che se uno se n'è andato perché ha avuto dei problemi o perché magari non si trova bene, o dice perché magari c'è a lavorare troppo, poi la prossima compagnia non è molto invitata ad assumere questa persona, soprattutto perché quando chiama la compagnia precedente di solito non gli dicono delle cose molto, molto generose, diciamo, su questi lavoratori che se ne sono. Questo è un problema. Sì. Questo è un problema. Certo. Insomma, intanto io ti ringrazio, Cesare, perché tu sei un giornalista, ti occupi di sport normalmente, però il fatto che stai a Tokyo ci ha dato il destro per chiederti di raccontarci un po' questa notizia. Stavi dicendo, però, in effetti, che è difficile, se ne parla spesso, è un tema ricorrente questo in Giappone, poi intervenire e cambiare le cose, perché lì il lavoro è un'idea, un'ideologia, un'etica. Quasi un obiettivo di vita delle persone, lavoro efficiente, senza limiti. Sta cambiando qualcosa secondo te piano piano, oppure nonostante questi tentativi, insomma, l'idea che c'è del lavoro in Giappone è sempre questa? Ma allora, a Tokyo negli ultimi forse 10 anni più o meno sono entrate abbastanza le compagnie internazionali, un esempio potrebbe essere Expedia, un'altra è questa compagnia inglese Perform, che adesso ha preso tutti questi diritti televisivi, e quindi queste compagnie stanno nuove a usanze. Creare una nuova cultura, sì, in cui i giovani ragazzi giapponesi, soprattutto quelli che anche parlano un po' di inglese, hanno studiato all'estero, si stanno cominciando ad inserire, e io credo che questo poco per volta comincerà a creare un livello di competizione e per forza le cose cambieranno. Però io penso che cambieranno naturalmente, proprio per delle leggi, diciamo, non delle leggi decise dallo Stato, ma per delle leggi, sì, del business, di competizione. E comunque ci vorrà ancora un po' di tempo. Certo, penso. Quello che diceva Carlo è vero, è incredibile. 100 ore come tetto di straordinari non sono poche, al mese. No, ne fanno molte di più. Adesso hanno deciso di non portarle oltre le 100. Quasi 4 ore al giorno di ore di straordinario come tetto massimo. Cioè, se penso da noi, chi è che fa 4 ore di straordinario di media? Tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i giorni. Ma credo nessuno. Cesare Polenghi, grazie, un grande saluto, un abbraccio fino a Tokyo, grazie per essere stato con noi. Grazie. E a presto. Ciao ragazzi, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. E allora, cari ascoltatori, vi aspettiamo invece dopo il giornale radio, anche per commentare questa notizia che viene dal Giappone, poi per raccontarci di che cosa siete stati realmente sorpresi, che cosa vi ha sconvolto, così come Virginia Raggi è rimasta sorpresa dalla polizza firmata a sua insaputa. Vi aspettiamo all'800 24 00 24 tra poco. Lavoratori! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Senti l'odore della strada dopo che ha piovuto, non vergognarti mai di un dono ricevuto, ti guardo uscire un po', mi sembra che vai sulla luna, e la distanza aumenta e non sei più la mia bambina, i rami tuoi si allungano a cercare aria, questo è il tuo viaggio, la tua vita, la tua storia, che non è scritta nelle stelle nel passato, puoi disegnarla col dito su un vetro appannato. Vorrei portarti in fondo alla notte, mostrarti il sole che sorge, stringerti forte a me e poi lasciarti andare. Vorrei che tu fossi felice, come quando uno dice questo posto mi piace, e anche se non c'è pace ci posso camminare libera, libera, libera. Voglio camminare. È con noi uno dei leader politici più apprezzati dalla sua area politica, ma a volte anche fuori. Fa l'amministratore, ma ogni tanto manda dei segnali politici di fumo a Roma, come in questo caso con una legge, una proposta di legge regionale, rivolta però al Parlamento nazionale, anti-burca. Ha un passato da PR di discoteche, è un difensore dell'agricoltura Made in Italy, forse ha un problema nuovo, che è Venezia. Avete capito che è con noi Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Piaciuto il preambolo, abbiamo fatto così, abbiamo messo un po' di temi sul tappeto. Zaia. Sì, ma mi faccio aggiungere al preambolo che sono sempre stato studente lavoratore, quindi non ho solo fatto discoteca, ma ho fatto anche il muratore, ho fatto molte altre attività. Mi sono occupato della pulitura industriale, insomma, tutti i lavori che potevo fare per studiare, tanto vero che mi sono laureato lavorando. No, non lo mettevamo in dubbio, è che in realtà è la parte che ci si immagina meno, è il PR delle discoteche, mentre quella che ci ha detto adesso era quella che ci immaginavamo di più. Però io sono stato un innovatore nelle discoteche, sono quello che ha portato i famosi. Oggi è normale ricevere un invito cartaceo, anzi oggi si usano le chat, è digitale. Allora, quando iniziai io, non c'era neanche l'invito al cartaceo, c'era il passaparola o i manifesti murali. Io ho introdotto quel sistema che era quello dell'invito. In realtà poi questa carriera da PR è un po' anche quella la modalità che poi ha aperto anche una carriera da politico, perché le pubbliche relazioni, sa, in questo senso sono quasi lo stesso argomento. Senta, partiamo con questa proposta di legge del Consiglio regionale Veneto che manda a Roma sul divieto di burka, una questione che ritorna. All'interno c'è anche una previsione di una pena importante per chi obbliga soprattutto le donne all'interno delle comunità musulmane, sappiamo che questo capita, di indossare il burka. Una Lega, voglio fare questa piccola premessa, un po' più femminista del solito, cioè voi venite da una tradizione di il celodurismo, me lo fai sentire Bossi, ce l'abbiamo, senta qua D'Antan. Ma la Lega Nord ce l'ha duro, cioè da quella Lega lì a cui comando io ad arrivare a oggi siete diventati più sensibili ai diritti delle donne, per esempio? Ma guardi, noi siamo sempre stati sensibili. Per quel che mi riguarda, penso che il rispetto della donna sia fondamentale e sia la base della civiltà di una comunità. Dico anche che non è un segnale di fumo questo, cioè c'è molto arrosto, nel senso che in un momento storico particolare dove il tema sicurezza è uno dei temi in cima a tutte le agende di governo e ai pensieri e alle preoccupazioni dei cittadini, si vanno a coniugare con questa legge anti-burka due necessità: il fatto che le persone siano identificabili, chiamatela anti-burka per una semplificazione giornalistica, ma è comunque una legge rivolta a tutti coloro che pensano di poter girare senza essere visivamente e velocemente identificati, quindi coloro che coprono il viso. Viene subito da pensare al burka. Io dico no, ma per un altro motivo, perché non penso che quelle signore costrette a coprirsi, che sono le stesse signore che incrocio in aereo, che viaggiano all'occidentale in aereo e prima di scendere nei loro paesi si rimettono il velo, ecco, penso che in questi casi sia anche una difesa fino in fondo di queste signore, della loro femminilità e del fatto di non farle vivere segregate. Allora, voglio prima spezzare una lancia a favore di questa proposta, che sul punto in cui prevede, ripeto, pene pesanti per chi obbliga le donne, oggi una donna che è obbligata a portare il velo integrale e volesse andare a denunciare questa cosa, non c'è un reato specifico. E questa cosa accade, ve le faccio sentire un audio di Soumaya Abdelkader, è una rappresentante della comunità islamica milanese, che certo non può essere tacciata di essere pregiudizialmente ostile all'Islam, come parla di questo problema. Sentiamo. Ci sono molti casi di donne che sono vittime di violenza o di discriminazione all'interno dell'ambito familiare, ma non solo, nella comunità musulmana. Molti musulmani portano con sé retaggi culturali, non legati alla religione ovviamente, ma retaggi culturali che mettono la donna in secondo piano, che la discriminano, che la svalorizza e così via. Ecco, io penso che chiunque, anche i fautori dell'integrazione, del multiculturalismo, su questo punto del punire chi obbliga una donna a indossare il velo integrale dovrebbe essere d'accordo. Però il punto, Zai, è questo: quando si parla di questa legge si torna sempre alla legge italiana già esistente nel 1975 e poi alla sentenza del Consiglio di Stato che vede nella questione religiosa un giustificato motivo per non impedire alla gente di andare col volto coperto. Cosa aggiunge questa proposta di legge che vuoi fare? Cosa cambia? Cambia qualcosa? Ma guardi, premesso che viviamo nel paese che di fatto open air, l'ufficio complicazioni e affari semplici, a me sembra chiaro che questa legge deve essere abrogata, punto e basta. Noi dobbiamo rispettare l'identità, le tradizioni, le persone non devono essere distinte per estrazione culturale, per credo religioso, per colore di pelle, per scelte sentimentali, però ci sono degli ambiti nei quali, che so, nella tradizione cattolica e cristiana si va in chiesa, o magari le signore più anziane vanno in chiesa e si coprono ancora il capo con il velo, penso ad esempio all'America Latina, che dove è più evidente, o in Spagna, e si coprono il capo con il velo all'interno del luogo sacro, no? questa è una tradizione che va rispettata, e quindi queste signore che vogliono andare in moschea se decidono di coprirsi per tutto un fatto di rispetto lo fanno all'interno della loro moschea, ma che girino, entrino negli uffici pubblici, vadano nelle piazze, mi arrivino in ospedale, perché poi c'è anche il problema delle visite, perché poi queste signore, diciamolo fino in fondo, oltre a non essere identificabili da subito, hanno anche il problema poi che c'è una pretesa capita, di essere Zaia, da medici donna. Capita spesso, visto che lei è responsabile anche della sanità in Veneto, capita, no? Capita che le donne non possono farsi curare, toccare da un uomo, perché ogni sono... Volta che arriva una donna con il burka, sì, è scientifico che non si può far visitare da un uomo, questo è poco ma sicuro. Io penso che tutte queste robe non funzionino, non vadano bene, per cui se ti va bene così, boh, se no te ne torni a casa tua, vai nei tuoi luoghi dove è normale girare col burka. Però ripeto, penso che quella donna non viva da donna a girare in quella maniera, cioè non è il rispetto della femminilità. Chiariamo che parliamo del burka o del niqab, cioè quello che copre integralmente il volto o anche gli occhi nel caso del burka. Non parliamo del chador, quello che copre il capo, crea problemi. Parlando del volto coperto, punto. Poi il velo e tutta questa storia è tutta un'altra storia. Certo, mi scusi, come lei molto giustamente stava dicendo, il divieto di comparire in pubblico mascherati già esiste. Addirittura nel 75 è stato aggiunto con mezzi atti a rendere difficoltoso, certo, il riconoscimento della persona in luogo pubblico. Quindi quello che noi ci chiedevamo, al di là della giustezza di questa legge, è se era necessario aggiungere una postilla, se mi permette la parola, che identificasse precisamente il burka o comunque indumenti che ricoprono, con particolari indumenti indossati da alcune donne di religione islamica, perché questo sembra discriminatorio. Nel momento che uno dice non ci si può coprire, vale dal casco della motocicletta al burka, ed era già compreso. Ci chiedevamo come mai sottolineare in un momento in cui esiste anche uno scontro fra religioni. Ma mi sembra evidente perché sottolineare, perché sempre a livello nazionale non si ha coraggio di prendere in mano questa situazione, o peggio ancora si è trascurato tutto questo aspetto. Cioè è chiaramente lacunosa la normativa. Oggi noi sappiamo che in Italia questi fatti possono essere ancora tollerati da un punto di vista legale, e comunque lasciano una discrezionalità al magistrato, qualora fossero contestati, che è una discrezionalità ampissima. E poi io, guardi, non faccio parte di quelli che si arrabbiano con i magistrati, anche loro avranno magari le loro pecore nere, però penso che la magistratura poi applichi delle leggi. Le leggi molto spesso sono fatte male, sono pasticciate, fatte da pasticcioni, e questi sono i risultati. Il problema però è che le leggi fatte male le fanno i politici, quindi in questo caso i magistrati non c'entrano nulla. Allora facciamo una piccola pausa, Zaia. Sì, scusi, devo fare una piccola pausa per il traffico, poi continuiamo a parlare di questa proposta di legge nazionale che viene dal Consiglio regionale del Veneto sul divieto di burka, poi parliamo anche di Venezia, perché c'è stato un incontro tra il sindaco Brugnaro e l'UNESCO, però ancora in ballo il fatto che Venezia possa essere inserita tra i patrimoni a rischio da salvare. Questa sarebbe, credo, una catastrofe per Venezia e per l'Italia, e voglio sentire anche il punto di vista di Zaia tra poco. 800 24 00 24, anche per gli ascoltatori. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora, di nuovo con Luca Zaia, parlando per esempio di questa proposta di legge. Anche in questo caso è un si può fare interrogativo, lo giriamo anche agli ascoltatori, 800 24 00 24. Sa qual è l'obiezione che viene a fare a questa vostra proposta di legge? È questa, che se si tira in ballo la questione della sicurezza, insomma, sembra un po' non c'è stato un terrorista che si sia visto negli ultimi tempi che andasse in giro a volto coperto. In realtà non è questo che accade. Cioè, forse bisognerebbe dire che questa questione del velo in realtà è una questione che riguarda la dignità delle donne. Quindi, se si ritiene che sia lesiva della dignità delle donne il velo integrale, allora si mette una legge che lo vieta, non tanto per questioni di sicurezza, che sembra quasi, Zaia, un paravento dietro cui nascondersi. Perché appunto. Ma guardi, mi perdoni, proviamo a fare un ragionamento al contrario. Per riuscire a legittimare il fatto che va rispettata la dignità delle donne, invochiamo la sicurezza. Si può dare anche questa lettura, eh? perché se avessimo fatto una legge pensando solo alla dignità delle donne e al fatto che devono togliersi il telo, molto probabilmente qui oggi sarebbe una discussione sul fatto che la donna è libera di scegliere, non, e vanno rispettate le culture e le tradizioni altrui. Allora ci mettiamo sopra anche il carico da 90, come dicono. Lei dice facciamolo una questione di sicurezza, e questo anche, taglia la testa al toro. Una sicurezza che è reale, perché è difficile capire cosa c'è sotto un velo e un abito che comunque non dà neanche una dimensione di chi ci sia sotto quel velo. Penso che ci sta, insomma, il rispetto della donna che viene sicuramente per primo in assoluto a livello planetario, e poi il tema della sicurezza, che è un tema comunque cogente in questo momento. Sì, sul tema della sicurezza, ripeto, è il fatto di specificare che sia proprio il velo, perché essendo già vietato andare mascherati, sarebbe come precisare dicendo soprattutto con la maschera di Pulcinella, e uno si sente discriminato, dice ma perché soprattutto con quella di Pulcinella, visto che stiamo parlando, andiamo adesso a parlare di Venezia, parliamo anche di quelle maschere lì, ed è su questo che non mi sembra, cioè, che capisco la polemica di qualcuno che dice no, in realtà voi volete parlare di burka. Guardi, premi Nobel della polemica ce ne sono da vendere. Ovunque, certo. Ecco, e soprattutto disfattisti, cioè c'è una categoria che riempie gli stadi. La verità è che quando io proposi l'anno scorso di fare i posti di blocco ai varchi, ai due varchi sostanziali che abbiamo a Venezia, ovvero Piazzale Roma, quindi l'arrivo via terra e l'arrivo via ferrovia che è la stazione, e quindi dicevo durante il periodo del carnevale si facciano dei controlli a campione, stati attuati, facendo togliere le maschere, più di qualcuno ha detto apriti cielo. Allora, in un paese nel quale si invoca la sicurezza e poi ci si arrabbia se le nostre forze dell'ordine vanno a arrestare qualcuno perché devono stare attenti che non venga manettato in pubblico, che non si vedano le manette, e devono stare attenti come lo strattonano, che non lo strattonino troppo violentemente, che poi alla fine sul banco di imputati ci va sempre il poliziotto, questa è l'Italia, no? Allora, io chiudo però questa questione del burka dicendo che sul punto eravamo specifico, su Pulcinella, ormai sì, sul punto specifico della previsione di una pena per chi obbliga le donne a indossare il burka, credo che tutti dovremmo essere d'accordo. Voglio leggere il passaggio, è questo: è punito con la reclusione da 4 a 12 mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità, eccetera eccetera. Credo che questo che un reato che al momento non esiste, su questo dovremmo essere tutti d'accordo. Capitolo Venezia, però, Zaia. Allora, le faccio sentire quello che ha detto l'altra settimana ai nostri microfoni un portavoce del gruppo 25 aprile, Marco Gasparinetti, a proposito dello spopolamento, uno dei temi importanti di Venezia, dove ci stanno solo turisti e sempre meno cittadini. Stiamo? Se lei di 100 metri quadri può fare un utilizzo tipo residenziale affittandolo ad altri residenti, sì, può percepire un affitto di 800-900 euro al mese, e l'alternativa invece è affittarla a notte, 200 euro a notte a dei turisti di passaggio, il reddito che le può percepire è chiaramente ben diverso. La leva fiscale potrebbe essere utilizzata per incentivare comportamenti più virtuosi. Le faccio un esempio: noi abbiamo una tassa sui rifiuti a Venezia che è la più cara in Italia, anche per le difficoltà logistiche e per la presenza di 30 milioni di turisti cui i rifiuti vengono pagati da noi. Come si fa a ripopolare Venezia, Zaia? Questi cittadini chiedono una revisione di una legge, io non sapevo nemmeno che esistesse, una legge regionale del 2013 che, dicono, ha liberalizzato gli affitti. Adesso si può affittare, chiunque può affittare a chiunque, soprattutto turisti, e così si sta spopolando Venezia perché non conviene più affittare ai veneziani. Che dice? No, guardi, allora, premesso che le politiche abitative a Venezia sono gestite giustamente dal sindaco e dall'amministrazione comunale. Quanto alla legge, questo cittadino solleva un problema reale, che è quello dello spopolamento di Venezia, che non è iniziato nel 2013, perché Venezia è ormai da decenni che è una città sicuramente affrontata, cioè visitata da molti turisti, cioè circa 14 milioni all'anno le presenze, ed è una città che, diciamolo fino in fondo, che ha dei prezzi anche non proprio abbordabili da un punto di vista del mercato immobiliare, per cui molto spesso le case passano di mano dai veneziani che se ne vanno poi magari ad abitare a Mestre, a degli stranieri, perché in molti casi sono stranieri che comprano. Punto. Detto questo, la legge che è stata fatta è una legge che è in linea con il trend internazionale, cioè è inutile che facciamo, come si può dire, i progressisti, quelli che comunque ragionano pensando al digitale, non analogico, insomma, facciamo tutti questi bei discorsi, parliamo di Airbnb, di questi fenomeni, e poi ci meravigliamo perché il Veneto, che è la prima regione turistica d'Italia, 17 miliardi di fatturato, 70 milioni di presenze turistiche, ha fatto una legge che è in linea con quello che accade in tutte le città del mondo. Mm. Ma quindi non si può in nessun modo incentivare, mi sembra questo il suo punto di vista, la residenza dei veneziani, perché se uno dei problemi è lo spopolamento, ben venga lo spopolamento a questo punto? No, ma assolutamente no, però non posso neanche accettare che si dica che è colpa di una legge regionale che non c'entra assolutamente niente, perché voglio ricordare che anche l'affitto turistico esiste da sempre a Venezia. Il vero tema è che oggi sono dei fenomeni internazionali e anche dei costumi cambiati che portano molto spesso, il dato Veneto ci dice, ripeto Veneto, non solo veneziano, si dice che due letti su tre, cioè due notti su tre, sono utilizzano un alloggio extra alberghiero, cioè vuol dire che ormai il turista, ecco appunto, pensate, però quindi sono loro che si sbagliano, insomma è questo comitato 25 aprile che evidentemente si sbaglia, non hanno le idee chiare. Non mi metta roba in bocca che non ho detto, perché se no mi fa arrabbiare, mi deve scusare, io non ho detto questo, anche perché ho detto che questi signori hanno ragione, il fenomeno le ho detto, le ripeto, che esiste da decenni, non da 2013, come però non si risolve modificando quella legge. No, va bene, su questo punto ha detto il suo punto. Vorrei concludere però il ragionamento, perché i veneziani sono gente seria e hanno diritto a una risposta. La soluzione è una solo, cioè fare politiche abitative, incentivare le politiche abitative, lo diceva un po' anche quel cittadino. Il tema poi è quello del cambiare i prezzi, perché lei capisce che una casa a Venezia costa mediamente 4-5 volte di più che nel resto del Veneto. È possibile cambiare i prezzi, però in che modo? Ma cambiare i prezzi, bisogna ad esempio fare delle politiche di incentivazione, lo diceva questo cittadino rispetto ad esempio ai costi, pensi al tema dei rifiuti, ad esempio che il turista che paga una tassa di soggiorno potrebbe, quella destinazione di risorse potrebbe essere destinata in parte ad incentivare l'edilizia popolare, quindi a fare in modo che molti alloggi nella città diventino sempre speriamo, assolutamente. Senta, pensi che abbiamo gondolieri che lavorano a Venezia e dormono a Mestre? Certo. Perché questa è la ma infatti il punto di partenza è questo, che uno dei problemi da risolvere è lo spopolamento. Brugnaro, il sindaco, ha recentemente incontrato la direttrice dell'UNESCO a Parigi, la decisione è sospesa, però se l'UNESCO inserisse, dovrebbe avvenire a giugno la decisione definitiva, Venezia tra i patrimoni a rischio da salvare, sarebbe un colpo d'immagine terrificante per l'Italia, disastroso, no? Beh, guardi, Venezia è una bomboniera, è patrimonio dell'umanità, quindi patrimonio riconosciuto dalla lista dell'UNESCO, e Venezia, cioè, il mondo non esiste senza Venezia, ma non glielo dico perché sono veneto. Venezia è bella oggi. No, ma siamo d'accordo anche noi. No, ma è per questo che il rischio che l'UNESCO la tolga dai beni è per questo, diciamo, che è allarmante. Siamo pienamente d'accordo con lei che Venezia sia Venezia e non si tocca. Che UNESCO, no, stavo dicendo appunto che UNESCO ponga delle questioni, è legittimo che vengano poste. Dico che l'amministrazione comunale e la regione si stanno dando da fare affinché le ultime partite, che sono quelle importanti, sono quelle delle grandi navi, escano dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco. Ma però vorrei ricordare che non è la regione e non è il comune poi che sono responsabili, perché basta che il governo decida di mettere in linea il pensiero del Ministero dei Trasporti, di quello dei beni culturali, di quello dell'ambiente, si chiudano in una stanza questi tre ministri, decidano di prendere una decisione definitiva, perché 5 anni che stiamo aspettando che si decida la soluzione definitiva. Ma però lei dice non dipende dalla regione, qualcosa dipenderà anche dalla regione, forse anche dal sindaco. No, guarda, secondo lei Brugnaro, che ha presentato le proposte a Parigi, sta governando bene Venezia? Ma guardi, secondo me sta governando bene Venezia, Brugnaro. La partita delle grandi navi, che è la vera partita, poi è una partita che pesa anche tanto comunicativamente a livello internazionale. La partita delle grandi navi, la regione l'ha già esaudita qualche anno fa, dicendo fate l'alternativa acquea, cioè la via acquea alternativa per non far passare più le grandi navi nel bacino San Marco, nel canale della Giudecca, e scegliete la soluzione che volete, però Roma decidete, sono passati 5 anni. Vabbè, dipende anche da Roma, e questo in parte è anche vero. Non solo da Roma. In parte è anche vero. No, beh, insomma, sicuramente dipende anche da Roma, ma non solo. Senta, l'ultima cosa che le voglio chiedere, proprio un flash, perché poi dobbiamo salutarci, per la questione dello smog, no? Perché anche il Veneto, ci sono molte città che hanno l'allarme perché sono stati superati i livelli di polveri sottili. Cosa si sta facendo per la questione dei riscaldamenti, anche a livello regionale? Perché questo è un tema che ogni volta ricorre, ma anche qui è colpa del governo? No, guardi, prima è colpa del governo, glielo ripeto perché c'è un decreto Clini Passera del 2011, cioè c'era ancora il governo Monti che stabiliva che sopra le 40.000 tonnellate le navi dovevano uscire dal canale Sudec e bacino San Marco, e da allora i ministeri stanno litigando per trovare la viabilità alternativa. Questa è la verità, punto, non c'è altro da aggiungere. Ma sulla questione dello smog? Per la partita dello smog le dico che i provvedimenti della messa a norma delle caldaie, tutte queste attività sono state fatte, le auto hanno sempre di più l'evoluzione rispetto alle loro motorizzazioni, le scelte rispetto all'ambiente. Però ricordiamoci che la pianura padana è un catino, è circondato dalle Alpi, dalle Prealpi, e quindi cioè, dove l'aria stagna, abbiamo ormai un paio di mesi di assenza di pioggia, parlo per le mie zone, e come tutti gli anni si ripresenta questo problema. Allora guardi, se io le bugie ai cittadini non le ho mai raccontate, andare a raccontare ai cittadini che c'è una soluzione per le polveri sottili immediata è impossibile, ma non è neanche un problema del singolo che amministra male, perché vorrebbe dire che per risolvere il problema, forse in maniera un po' evidente, bisogna dire a tutti di non riscaldarsi più, di non circolare più in auto, di cercare di fare emissioni zero. Insomma, bisogna conviverci. D'altra parte, quello che dice lei sul fatto della pianura padana è indubitabile. È un dato di fatto, guardi, noi da due. Però ci piacerebbe ogni tanto sentire, non dico qualche promessa al vento, ma insomma qualche proposta, perché è un grosso tema anche questo dell'ambiente. Comunque, ci fermiamo qua. Grazie Zai, ha dato tutte le risposte alle nostre domande. Buona giornata. Grazie mille, arrivederci. 800 24 00 24, erano tanti gli argomenti che volevamo affrontare con il presidente del Veneto. Ci fermiamo per una breve pausa, poi riapriamo anche i microfoni degli ascoltatori che abbiamo un po' trascurato, e sentiamo cosa c'hanno da dirci, soprattutto sulla questione che abbiamo chiesto stamattina. Libri a chi risponde alla nostra domanda: che cosa vi ha veramente sorpreso? Un po' come è accaduto alla Raggi con le polizze a sua insaputa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Siamo stati socialisti o comunisti di ritorno, democratici industriali, quinta potenza mondiale, migranti poi terroni con valigie di cartone. Ora tocca a noi ospitare, l'Africa sta per scoppiare. Siamo stati operai con il mutuo per la casa, e ad agosto in vacanza con la 500 nuova. Ora siamo laureati ma non abbiamo lavoro, e ci chiamano precari con il cellulare nuovo. Non arriva a fine mese, ma che bello il bel paese. Evviva l'Italia, evviva l'Italia, dove c'è Dio che vede e provvede. Evviva l'Italia, evviva l'Italia, dove c'è Zio che vede e non vede. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche su Radio 24, e questa che abbiamo appena ascoltato è Evviva l'Italia, o Ewiwa l'Italia, perché è scritta con la W di Nazario Tartaglione, che è stato proprio lui a inviarci questa canzone, un cantatore pugliese, perché scusate, devo dire che lui ci saluta, ci fa i complimenti per la trasmissione, ma mi sembrava un po' inutile. Invece quello che è importante è che noi cerchiamo sempre dei Si può fare, quindi se siete dei musicisti, dei cantanti, dei cantautori, anche semplicemente degli ascoltatori, e trovate, incontrate sulla vostra strada una canzone che secondo voi racchiude bene il concetto di Si può fare, vi chiediamo di comunicarcela, di farcelo sapere, così la faremo sentire. Come farlo? Potete inviarci i vostri Si può fare in musica, la mail si può fare @radio24.it, oppure sui nostri profili social, su Facebook Si può fare /radio24, oppure Twitter @si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Allora andiamo con gli ascoltatori all'800 24 00 24. Paola ci chiama dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Buongiorno, grazie. Allora, io ho subito, se si può dire subire, lo stesso destino della Raggi, perché sono stata beneficiaria, a mia insaputa, di una polizza da parte di uno zio che aveva già fratelli in vita, c'erano altri parenti. Sì. E quindi, insomma, a quanto ammontava sta polizza? Centinaia di euro, insomma, a parte del patrimonio. Lo zio era solo, non aveva eredi diretti, e quindi... Ma la vera domanda è la polizza era solo per lei o anche per altri parenti? No, la polizza era solo per me, e quindi questo è stato il, diciamo così, la sorpresa grossa, perché tutti andavamo d'accordo con lo zio non aveva nessun problema con nessuno. E che abbia scelto me rispetto ad altri è stata una cosa strana. Per cui in famiglia si saranno chiesti come mai l'ha data che è un po' quello che è successo alla Raggi. Uno dice va bene tutto a sua insaputa, ma come mai è successa questa cosa? Ha dovuto passare la vita a giustificarsi del perché. Dovrò passare la vita perché è una cosa recente. Lo stai comunicando adesso via radio, lo stai comunicando ai tuoi parenti. No, il discorso che volevo dire è che mi si è aperto un mondo sulle polizze, nel senso che è vero che la banca non ha l'obbligo di comunicare il beneficiario. No, infatti, questo è stato chiarito. Ma infatti è più frequente di quanto si pensasse che ci siano delle polizze intestate all'insaputa del beneficiario. Paola, grazie, resta collegata con noi, perché tra poco ti chiediamo anche di valutare i nostri progetti di crowdfunding, il Cloud Me Up. Andiamo con Cecilia da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Io in realtà, se posso permettermi, volevo fare solo una battuta sul discorso precedente, quello dei cellulari in classe. Sì. Certo. Per prima cosa mi volevo complimentare con tutti i dirigenti scolastici che hanno espresso comunque un'opinione positiva o negativa. Io, che mi occupo di innovazione a scuola e di innovazione nella didattica, penso che abbiamo di fronte tantissimi ragazzi che sono, come sappiamo, dei nativi digitali. Essere un nativo digitale non significa essere un competente digitale. Tendenzialmente sono un po' più ignoranti rispetto a quello che potrebbero essere con un dispositivo così potente, si può quasi andare sulla luna con un cellulare, per dire. E ritengo che esistano oggigiorno delle app o degli da scaricare molto belle, che possono insegnare anche la fisica. Io conosco docenti che portano i loro studenti al parco, mettono lo smartphone su uno scivolo e insegnano la gravità e tante belle altre amenità del genere. I ragazzi imparano molto meglio. Sì, si faceva con un sasso ai miei tempi. Bravo, bravissimo. Non è che serva il telefonino, però è molto bello usare il telefonino. I ragazzi, come sapete, sono abbastanza attratti dalle tecnologie e stanno sempre a guardare quello certo. Che è un compagno, come ci diceva la preside prima. Allora io penso che non vadano demonizzati, ma vanno utilizzati. Noi facciamo degli hackathon per insegnare a costruire le app, e i ragazzi si stupiscono di dire: ah, ma le app perché sono costruite da qualcuno? Non scendono dalla luna. Bellissimo, quindi, diciamo, bellissimo. Insegniamo loro a usare lo strumento giusto, che hanno. Giusto, era un po' l'altro lato della medaglia che ci mancava stamattina, parlando con la preside Stornaiuolo dell'Istituto Minniti di Napoli, che vieta i cellulari, però si diceva giustamente: bisogna poi anche dedicare un piccolo spazio a capire le nuove tecnologie, ad utilizzare, a imparare a utilizzarle correttamente. Cecilia, resta con noi pure tu, se vuoi, così puoi partecipare al Cloud Me Up, i due progetti di finanziamento dal basso. Vai. Cloud Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Già, perché anche oggi abbiamo scovato due progetti, uno di solidarietà e uno riguarda una innovazione tecnologica, che chiedono il nostro aiuto, il vostro aiuto, un piccolo finanziamento. Funziona così il crowdfunding. E allora cominciamo tra poco con i due progetti. Prima però voglio sentire anche il terzo giurato. Va, Domenico da Udine. Buongiorno Domenico. Buongiorno a voi. Benvenuto. Buongiorno. Benvenuto. Tu volevi parlare di qualcosa, volevi fare un intervento? Sì. Sì, volevo parlare della situazione delle risorse umane in Giappone, sì. No? Ecco, io sono stato per tanti anni direttore commerciale Italia di un'azienda giapponese, certo. In realtà dal 97 al 2003,

questo, nel senso che abbiamo voluto creare un biotel perché ospita api solitarie, sì, ovvero delle api che non vivono in sciami, a differenza delle api mellifere invece che vivono in sciami. Ecco, ah, ecco, è questa la, esatto, perché io mi chiedevo, questa, la particolarità, esatto, è questa, perché io mi chiedevo, ma le api si costruiscono solitamente i loro alveari, quelle, infatti, che fanno il mi chiedevo, mi sembravano anche piuttosto orgogliose, non me le vedevo, sì, tanto, esatto, andare in qualcosa costruito dall'uomo. Certo, no, infatti diciamo che le api mellifere, cioè sono proprio due specie completamente diverse. Tutte e due sono accomunate dal fatto che fanno impollinazione, che appunto serve per mantenere le biodiversità. Però mentre le api mellifere vivono in sciami e vengono comunque allevate dall'uomo, quindi dagli apicoltori, e quindi non c'è attualmente un rischio estinzione, per quanto riguarda invece gli impollinatori, ovvero le api solitarie, appunto vivendo in maniera solitaria, rischiano l'estinzione perché nessuno se le fila, se le cura, e quindi i cambiamenti climatici, l'uso di pesticidi ed erbicidi in ambito di agricoltura stanno mettendo a rischio alcune specie. Ed è bello che voi vi occupiate proprio di queste api, non quelle che fanno il miele, perché normalmente ci si occupa di quelle perché poi almeno... Ma mi ha chiarito un dubbio, che avevo da tantissimo, perché in effetti esatto, si dice spesso che le api si stanno estinguendo, poi uno dice, vabbè, però invece mi sembra che ce ne sono tantissime che fanno il miele, che sono due tipi di api diverse. Sì, sì, esatto. Noi come associazione ci occupiamo di entrambe, nel senso che l'associazione apicoltori nasce proprio per esigenze di apicoltura. Quindi il miele. Stiamo per il miele, esatto. E il propoli. Esatto, il miele, la propoli, la pappa reale, e comunque anche il compartimento dell'apicoltura sta soffrendo in questi ultimi anni sempre per gli stessi motivi degli impollinatori, quindi cambiamenti climatici, l'uso di pesticidi e erbicidi in agricoltura. Però il senso proprio del progetto è quello legato alla salvaguardia degli impollinatori a 360 gradi e soprattutto fare formazione, mettere a conoscenza di questo problema le persone. Quindi l'idea di metterlo in un parco pubblico è proprio legata a questo. E complimenti, perché insomma, grazie, abbiamo capito dell'importanza delle api quando un giorno è stata aperta addirittura una task force alla Casa Bianca tempo fa. Sai, è quando certo, c'era Michelle, certo, Obama, tutti questi temi erano molto d'attualità. Adesso Trump credo che abbia chiuso tutto, no, non lo so. Comunque grazie a Daniele Barbieri della Falegnameria, realizzatore di Idee di Mantova, che ha realizzato questa splendida idea, un ostello per insetti solitari. Grazie, grazie, complimenti, grazie. Chiudiamo però con un ascoltatore, Francesco da Napoli, velocemente, vai. Sì, velocissimamente, è stato bello anche ascoltarvi l'estate ad agosto. Ma molto, grazie, bene, molto bene, bravo, vai. Sarò rapidissimo, anche sì, se me ne sono un po'. La sorpresa che mi ha sconvolto è stata dovuta a un reato di quelli più luridi che esistono, cioè la truffa agli anziani. Praticamente sei stato truffato, Francesco, tua mamma. La mia mamma, sì, che purtroppo non c'è più. Insomma, io un giorno non la chiamai come di mia abitudine, la chiamai quando tornai dall'ufficio. Dico, mamma, tutto a posto? Dico, ma non dovevi venire? Dico, no, perché? No, tu stamattina mi telefono un sacco di volte. Scapicolai a casa di mamma, vieni a sapere, insomma, che avevano chiamato col mio nome e quant'altro. Vabbè, comunque io chiamai il poliziotto, facevo una denuncia domiciliare, scoprimo che mamma ci aveva nascosto, ed era una semplice menzionata da 800 euro al mese, circa 10.000 euro. Dobbiamo salutarci, Francesco, mi dispiace, non c'è tempo sulla cifra, chiudiamo questa storia. Comunque noi avevamo già deciso di premiare Marco da Foggia col suo tradimento, doppio tradimento al quadrato, quindi, esatto, a lui, che ci era piaciuto molto, moltissimo, Finzi Contini in omaggio. Grazie Andrea Piana, Claudia Schiattone, Peter Bescapè. Ci sentiamo domani alle 8:30. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona giornata.